La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, l'ultima puntata di luglio della nostra ora di cinema settimanale qui su Radio 24. Settimana dominata, diciamo così, a livello di distribuzione di novità in sala dall'arrivo di Hugh Jackman nei panni ancora una volta di Wolverine, questa volta l'immortale. Ne parleremo diffusamente fra poco qui alla Rosa Purpurea, ma non è l'unica uscita, l'unica novità, anzi, e poi si parlerà anche delle novità che vedremo, quelle da settembre in poi. Il cinema italiano cosa sta facendo, cosa ci proporrà da dopo le vacanze fino a dopo Natale, e anche oggi un piccolo passo, un'altra piccola scoperta con Daniele Lucchetti. Ma non anticipiamo troppo, anzi anticipiamo tutto nei titoli di testa. Dal fumetto al grande schermo, le avventure di Titeuf, ragazzino in perenne conflitto col mondo degli adulti, inventato dalla matita dello svizzero Zepp, diventano un film in 3D con la regia dello stesso creatore. Cosa succede se per caso si invertono i cartellini degli invitati a un pranzo di matrimonio? È l'equivoco alla base della commedia Se sposti un posto a tavola, un po' Sliding Doors, un po' Festen. Esordio alla regia di Christelle Reynal. Torna in sala, in copia restaurata, Paura e desiderio, l'esordio alla regia del grande Stanley Kubrick. Per 3 giorni la possibilità di scoprire un film che lo stesso regista di Arancia Meccanica definiva un esercizio da studente, ma che rivela parte delle tematiche di una carriera monumentale. E sarà presentato in prima mondiale a Toronto il nuovo film di Daniele Lucchetti, Anni Felici, una pellicola fortemente biografica con Kim Rossi Stewart e Micaela Ramazzotti. Alla Rosa Purpurea l'intervista a Daniele Lucchetti. Ebbene, bene, questo allora il carnet, il menù di questa puntata. Cominciamo subito con un film, una novità in sala, un film che sicuramente farà felici soprattutto i più piccoli, i bambini. Alla base di questo film c'è un personaggio molto amato dei fumetti francofoni, stiamo parlando di Titeuf, una serie a fumetti creata dallo svizzero Philippe Chapuis, in arte Zepp, diventata poi una serie televisiva sempre nei paesi francofoni, adesso un film in 3D. Lo ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Forza in classe! Non avete sentito la campanella? Che schifo! Così le farà arrugginire l'apparecchio. Lui è Manu, il mio migliore amico. Sapete parlare con i rutti? Lui è Hugo, il mio secondo migliore amico. Il tizio con la bava è Jean-Claude. Sparisci, vuoi la mia foto? Le ragazze sono tutte inutili, tranne Nadia. Nadia è talmente bella che un giorno voglio sposarla. Mi lasci respirare? Beh, il problema è che è pur sempre una ragazza. Praticamente avete conosciuto il mondo di Titeuf, cioè scuola, amici e amore segreto di un ragazzino con un unico enorme ciuffo biondo che cerca di superare indenne il passaggio fra l'infanzia e l'adolescenza. Un passaggio complicato anche da qualche problema fra mamma e papà. Il mio papà è fortissimo. Questa è la mia mamma. La adoro. A letto. Tranne quando dice questo. Potevi lasciargli finire la partita, no? È chiaro che quando sei l'autorità non è su di te che si può contare. E clac, ha chiuso la porta e se n'è andata via. Una ragazza. Dobbiamo fare il punto della situazione. E per farlo meglio, non hai bisogno del mio Game Boy? Non li capisco davvero. Non serve andare dalla nonna per riflettere. Lei parla in continuazione. Una situazione comune a tanti, che si complica però quando accade una vera e propria tragedia. Nadia, il grande amore di Titeuf, non lo invita alla sua festa di compleanno. Ma quando le parlerai? Le manderò una lettera anonima. Ti porterò con me sulla mia navicella spaziale. Ma è poesia! Sei davvero un pisellino buono a nulla. Cosa? Non sono invitato. Al compleanno di Nadia non sono invitato. Tu mi vedi qui? Non sono qui! Fuori tutte e due! Qui. Lo spiegherete al direttore! Su! Non vi sveliamo se e come il nostro eroe riuscirà nell'impresa. Certo possiamo dire che Titeuf è disposto a tutto per la sua bella. Titeuf, il film, è il primo lungometraggio animato che nasce dai fumetti dello svizzero Zepp, qui anche alla regia. Dal fumetto originale del 1992 è derivata anche una serie TV. In tutte e tre le versioni, assolutamente in linea anche graficamente fra loro, Titeuf mostra come i bambini guardino il mondo costruito dagli adulti e come vivano le loro avventure e disavventure di un'infanzia, direbbe De Gregori, igienicamente perfetta, morbillo, tristezza e nessun'altra malattia. Presentato al Festival di Giffoni è piaciuto al pubblico dei ragazzi e c'era effettivamente molta attesa, riversata in una pagina Facebook da 13.000 fan, da parte dei sostenitori del fumetto. Proprio chi è più legato all'originale non resterà deluso, perché la pellicola, seppure con un soggetto non proposto prima, fa pochi passi in più rispetto al fumetto, su carta e alla TV. Il che è un punto di forza insieme il limite di un film che è comunque vedibile, fa sorridere di sé i grandi e anche i piccoli. Fra i motivi per cui andare a vederlo c'è l'alter ego animato di Johnny Holiday, lo avete appena sentito cantare, in versione avventuriero country, e ci sono i sognocchi aperti di Titeuf, fin nella preistoria. No, invece al 3D, che proprio qui non serve. E allora, questo era Titeuf, raccontatoci da Chiara Pizzimenti. Vedremo che possibilità anche in questa stagione estiva avrà un film per bambini, quindi per famiglie al cinema, però siamo curiosi di vedere come andrà. La classifica per il momento dice, per la seconda settimana consecutiva tra l'altro, che al primo posto c'è I Maghi del Crimine, Now You See Me, che ha battuto nel weekend esordio Pacific Rim e lo ha ribattuto anche nel secondo weekend. Il film di Guillermo del Toro è secondo, ma l'incasso globale è ancora inferiore, tutti questi dati si riferiscono ovviamente a lunedì scorso, è ancora inferiore ai 2 milioni di euro, insomma non è che sia andato proprio col botto Pacific Rim. Terzo posto per The Lone Ranger, a proposito di film che non sono andati assolutamente col botto, perché qui da questa grossa produzione di Gore Verbinski con Johnny Depp nel cast ci si aspettava sicuramente molto di più in casa Disney. E poi quarto posto per Pain and Gain, ma da qui in poi gli incassi sono veramente molto molto estivi. Buona performance complessiva per War Z, come volete voi, a seconda che lo diciate in italiano o in altre lingue, di Mark Foster con Brad Pitt, che ha raggiunto i 5 milioni quasi di incasso globale in Italia, che è un buon risultato per quello che è comunque appunto un film di genere. In questa classifica sicuramente interverrà, impatterà, vedremo con quale forza, la settimana prossima Wolverine l'immortale, del quale parliamo fra poco, dopo la viabilità. La rosa purpurea. Svegliati, svegliati, svegliati, svegliati, svegliati. Dov'eri? Oh, Jane, mi dispiace tanto. Non farò mai più del male né a te né a nessun altro finché vivrò. È troppo tardi. No, Jane! Non puoi nasconderti. No, Jane! Non puoi nasconderti, Wolverine, devi tornare a quello che forse è il tuo destino e gli incubi che rincorrono e si rincorrono nella memoria, nella mente notturna di Logan, sono lì a dirglielo, a ricordarglielo sotto le sembianze della bellissima moglie uccisa nel precedente capitolo X-Men Conflitto Finale. Siamo a un nuovo Wolverine, a una nuova prova per questo che sta diventando un connubio di quelli che durano, quello di Hugh Jackman appunto con il mutante adamantino, con gli artigli molto affilati e con Wolverine l'immortale. Forse entriamo in uno dei racconti più intimisti, almeno nella prima parte, di questo personaggio. Lo ritroviamo come lo avevamo lasciato, ritirato in vita quasi eremitica sui monti in mezzo agli orsi, anzi sarà proprio l'incontro con un enorme grizzly, poi ammazzato dalla furia dei cacciatori, a risvegliare in lui gli istinti di giustizia, quando dentro un saloon, dentro un bar di montagna in America, così diciamo, metterà un po' a posto la testa calda di alcuni cacciatori. Sarà quello il momento in cui capirà che deve ritornare fuori, e lo farà anche perché compare davanti ai suoi occhi una mutante orientale, giapponese, che gli mette lì in mano una spada e gli racconta perché qualcuno vuole vederlo. Questa spada ha centinaia di anni ed è stata chiamata Danzan dal primo samurai che l'ha usata. Danzan significa separatore in giapponese. L'arma ideale per separare la testa e gli arti dal corpo. Così? Ho parcheggiato dietro. Personaggino, insomma, questa mutante. Si parte per il Giappone. Perché? Perché qualcuno, dicevamo, vuole vedere Logan, vuole vedere Wolverine e vuole fargli una proposta. Indecente? Forse, ma Wolverine è macerato, forse dalla voglia e dal peso dell'immortalità e dalla voglia forse di non esserlo più. Almeno così intende questo personaggio in Giappone, diventato un magnate molto facoltoso, che un tempo Logan aveva salvato dal disastro atomico di Nagasaki e che adesso torna a chiedergli il conto. Un tempo i nostri nemici conoscevano l'onore. Ti offro qualcosa che nessun altro ti può dare. Un dono. Hai lottato fin troppo. Io posso porre fine alla tua eternità. Renderti mortale. Ciò che mi hanno fatto. Ciò che sono. No! Non si può cambiare. Non esserne sicuro. Insomma, ti do la mortalità, mi dai la tua immortalità. Questa è la proposta indecente. Chiunque non fosse scemo magari non accetterebbe, ma in quel momento Wolverine è non tanto scemo, ma sicuramente in una condizione psichica che potrebbe favorire questo scambio. Sicuramente il trasferimento in Giappone sarà foriero di parecchie avventure e disavventure, di parecchie battaglie, di tanta azione, di guerrieri ninja che ti trafiggono e che cercano di evitare che tu compia il tuo destino, perché sì, Wolverine è nato per compiere un destino e anche questa volta le cose andranno così. Noi ci fermiamo ovviamente nel plot, vi abbiamo dato tutta roba che succede nei primi 15 minuti di film, da lì in poi il film è tutto da vedere. Ne parliamo con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti. Allora, un Wolverine, dicevo, che a mio modo di vedere parte molto bene, va avanti molto bene anche nelle scene d'azione. Alcuni hanno criticato la scena sul treno proiettile, per esempio, 5 minuti di Wuxia Pian praticamente volante con gli artigli infilati nel tetto del bullet train giapponese. A me la scena è piaciuta moltissimo, mi ha molto divertito. Ci sono momenti visivi importanti, a mio modo di vedere, però da un certo punto in poi il film esagera, fra esoscheletri che sembrano imbattibili. Insomma, mi sembra che le premesse intimiste della prima parte, che potevano lasciar presagire, anzi ti regalavano anche emozioni e sentimenti interiori, a un certo punto si perdano a vantaggio di un'azione un po' più pecoreccia, ecco. Ma guarda, sono d'accordo con te che quella scena per me è l'unica bella, quella scena del bullet train, pazzesca, anche perché fa esattamente il contrario di quello che cerca di fare per tutto il resto del film, cioè gioca su una gestione degli spazi, dei ritmi e della suspense che sono completamente sconosciute al resto, nel senso che in quella scena non vedi particolare violenza, non vedi facili soluzioni dei combattimenti, ma vedi quasi una coreografia da ginnastica artistica, e lo dico con ammirazione, nel senso che poi l'effetto che c'è sullo schermo è molto molto bello. Io rimarrò sempre sconvolto da fumettaro, tra l'altro, da come i personaggi più belli probabilmente della Marvel, come Wolverine e Hulk, continuino ad avere al cinema delle realizzazioni così brutte. E ancora di più vale questo per Wolverine, perché Wolverine ha avuto anche la magia di trovare tra gli attori uno che praticamente era il suo sosia, o che comunque è riuscito a diventare il suo sosia. Wolverine è un personaggio che ha un pozzo di possibilità narrative, emotive, anche di ritorno al passato, proiezione verso il futuro. Fatto sta che sia nei film collettivi di X-Men, sia poi in questo spin-off, che ormai è diventato un genere, non riesce mai a tirare fuori nulla di tutto questo, e succede quello che dici tu, appunto, che diventa un banale film d'azione in cui tra l'altro non ci sono neanche idee straordinarie, e che in questo caso viene secondo me peggiorato dal fatto che il regista che è stato coinvolto, Mangold, è uno dedito al melodramma, e che peggiora di tantissimo anche dialoghi e struttura narrativa. Cioè Wolverine a un certo punto ti immagini che invece di tirar fuori gli artigli dalle nocche tiri fuori un mazzo di fiori, tiri fuori una scatola di cioccolatini, perché a un certo punto diventa così melenso che così non l'avevamo francamente mai visto. È improbabile poi, peraltro, secondo me, anche la struttura, diciamo, del soggetto. Questo personaggio che viene salvato a Nagasaki con sommo sacrificio di Wolverine e che poi, di tutta risposta, gli chiede la mortalità, perché gli chiede l'immortalità, perché insomma lui è generoso, no? Mi hai salvato la vita una volta, li salva, ma la definitivamente, avrebbe bisogno di un carisma, diciamo, diabolico che quel personaggio assolutamente non ha. E lo stesso vale per le protagoniste femminili, anche se, diciamo, quella che abbiamo sentito nel trailer perlomeno ha il dono della simpatia, il dono dell'empatia con lo spettatore. Fatto sta che secondo me, purtroppo, questo è l'ennesimo fallimento di Wolverine, e la cosa francamente mi addolora, proprio perché adoro il personaggio nei fumetti. E allora, questo per quanto concerne Wolverine, vedremo poi il pubblico cosa ne penserà, prodotto che è stato, come dire, lanciato in questa calda estate, che quindi dovrà reggere secondo le aspettative almeno per buona parte del mese di agosto. A questo punto noi giochiamo insieme, poi fra poco parliamo di un grande capolavoro che torna in sala, ma prima la prima traccia del nostro DVD game di oggi. Mi dispiace, sono piombato qua all'improvviso, devo averti messo in imbarazzo. Io ho bisogno soltanto di un po' di tempo per respirare. Sì, sì. Dimmi la verità, tu pensi che sto sbagliando? Sì, penso che stai scappando. La Rosa Purpurea @radio24.it. Di che film si tratta? Scriveteci il titolo e scriveteci il vostro indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film per il sabato e per la domenica. Più tardi vi faremo ascoltare altri due frammenti. Allora, chiedo alla regia adesso di far partire questa clip d'antan, veramente d'epoca. Sentiamo. I guess I'm not built for this. Nobody ever was. It's all a trick we perform when we'd rather not die immediately. Don't be afraid. We're not going to hurt you. She's quite nice. Don't you think so, boys? Hmm. Well, what are we supposed to do with her now? I've got a wife at home. I'm afraid she's become our uninvited guest. I must say I've had worse guests at better parties. Una clip tratta dai dialoghi originali di Fear and Desire, questo film, Paura e Desiderio, del 1953, ed è stato il debutto alla regia di un signore che si chiamava Stanley Kubrick, debutto nel lungometraggio. Un film totalmente autoprodotto, un film che però ci regala già alcune schegge della grandezza di Kubrick, come la capacità di mettere in scena l'intimità nell'ambito di un film ambientato in momento di guerra, in cui però la guerra si vede pochissimo e in cui sono gli uomini che giocano sul loro destino. Un film che ebbe tanti problemi, che lo stesso Kubrick considerava una sorta di esercizio di uno studente di cinema, ma che insomma poi a vederlo dopo quello che Kubrick è stato ed è diventato, come dicevo, mostra qualche prodromo di quella che è stata la grandezza del regista appunto di tanti capolavori, poi da lì in poi, da Arancia Meccanica, 2001 lo spazio, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, perché ve ne parliamo, al di là del consacrare e ricordare un grande film? Perché questo film torna in sala, torna in una versione restaurata per 3 giorni e quindi, insomma, è una grande occasione, una grande opportunità di vederlo nello splendore per cui quantomeno era nato, anche se appunto si trattava di un piccolo film inizialmente, ma insomma, rivederlo sul grande schermo. Boris, se non sbaglio, 29, 30 e 31 luglio sono le 3 date in cui in una serie di cinema in tutta Italia si potrà vedere Fear and Desire. Esattamente, poi andrà in DVD per Raro Video 29, 30 e 31. Io ve lo consiglio perché già per molti non c'è stata l'opportunità di vedere i Kubrick in sala, ma sono stati visti in ottime edizioni, per carità, prima VHS e poi DVD. E poi perché Fear and Desire è una piccola scoperta anche per chi di cinema, diciamo, ne sa, anche per chi di Kubrick si è nutrito fin dalla tenera età e adesso lo conosce a memoria e soffre del fatto che non può vedere film nuovi di Kubrick. E questo di fatto è un film nuovo di Kubrick, perché è rimasto nascosto, insomma, per tutta una serie di motivi, tra cui la grande severità verso le prime opere che ha girato Kubrick, l'autoseverità che imponeva a se stesso, che lo faceva essere molto feroce anche nell'autoanalisi, Fear and Desire è un film che, altro che, insomma, è un gran film a mio parere, e allo stesso tempo si vede tutto quello che sarebbe stato Kubrick, quello che poi avrebbe diciamo incarnato in Kirk Douglas e Peter Sellers per quanto riguarda l'idea della guerra. In Fear and Desire già c'è e c'è anche forse una libertà, una leggerezza che Kubrick poi non avrebbe più avuto, una leggerezza diciamo sia produttiva che di racconto. Poi sarebbero arrivati film che faceva in almeno 10 anni e che quindi erano cesellati col suo perfezionismo. Qui non poteva permettersi il lusso del perfezionismo, in alcuni momenti chiaramente didascalico, però l'idea della guerra che lui poi in qualche modo ha portato al cinema e con cui ha cambiato anche le nostre teste, in Fear and Desire già c'è, ed è la possibilità di vedere la nascita di un genio, la crescita di un genio. Che cos'era prima di essere il più grande regista di tutti i tempi? La rosa purpurea. Com'è possibile che un piccolissimo dettaglio ti possa cambiare la vita? Contenti dei vostri gusti? Assolutamente. Stupendo. Hai scelto benissimo. Marjorie! Certo che se continua a mettersi pesci morti sulla testa, non si sposa più. Sono vergine. Cioè, vergine, ma soltanto di segno. Ah. Forse non sono stato molto chiaro con te, ma il problema non sei tu, sono io. Sono desolato, signore, davvero. Ma è terribile. Mi scusi tanto. Mi accompagni? Al lavoro è il momento. E ora assaggia gli ananas, senti che buoni. Insomma, c'è un po' di così, di anche di scherzo greve, di comicaccia. In questo film francese, in questa commedia, Se sposti un posto a tavola, l'avete sentito anche all'inizio, il titolo non è del tutto casuale. Cioè, cosa succede se involontariamente vengono spostati i segnaposto e quindi si cambiano gli ordini ai tavoli, che sono una delle cose più rigorose che esistano nella vita, gli ordini ai tavoli dei matrimoni. Provate a scardinare, a dire: ma io volevo stare, no, niente, non si può, tu eri messo lì, devi stare lì e devi fare questo. Ma se quest'ordine si scompagina per via del fato, può succedere anche, secondo la regista Christelle Reynal, può succedere quello che accade in questo film. Una commedia, Boris, una commedia francese, come si fanno le commedie francesi, quelli che vengono definite le commedie carine? Esattamente sì, quella che nei salotti buoni si dicono: ho visto un film delizioso, devi assolutamente andarlo a vedere. Ecco, questo è Se sposti un posto a tavola, che parte anche da, come dire, un soggetto piuttosto carino, ecco, chiamiamolo così nel vero senso della parola, perché appunto sappiamo tutti che in un matrimonio è più facile, è più difficile cambiare posto che ne so, rifare una maggioranza politica in Italia. E si parte da questo presupposto. Il caso permette a questi due ragazzi di scambiare dei posti, di cambiare la strategia perfetta che si era creata all'interno della mente degli sposi, e questa strategia perfetta crea chiaramente, scombinata, crea un effetto domino. Allora, diciamolo subito, è una scopiazzatura un po' di tanti film, da Sliding Doors a, come avete sentito, perché riponiamo insomma sempre i puntini su lei, la battuta sulla Vergine nel senso del segno, ricordiamocela, è di Lina Wertmüller che la fece dire a Mariangela Melata con Giancarlo Giannini, cioè vergine nel senso dell'oroscopo, e non c'è nulla di originale in questo film, come spesso accade, mi dispiace dirle, non voglio generalizzare, nelle commedie francesi. È tutto però ben messo, ben collocato, con dei ritmi comunque accettabili, con uno schema di battute, di dialoghi e di scene molto ben collaudato, il che appunto arriva poi alla fine a portarti a una commedia sentimentale, corale, molto carina, che farà dire a un certo tipo di pubblico molto assuefatto a questo tipo di racconti: ma carino, delizioso, fantastico. Io purtroppo, quando vedo questo tipo di film, magari mi diverto anche abbastanza durante, ma dopo 5-10 minuti faccio fatica a ridaccontarlo. Champagne, sposandoti così in fretta con Paul e con la sua vita tutta perfettina, non ti sei sbagliata, No. Con lui sei... sei al riparo da tutto. Salvo... salvo forse, anzi sicuramente dalla... dalla mediocrità. No, voglio finire. Ridiamo, scherziamo, è festa oggi. È il matrimonio di tua sorella. Quanto a te, Paul? Ci penso. Ti nascondi dietro le tue belle maniere, eh? Le camicie ben stirate, i pantaloni con le pelle, non un capello fuori posto! Ma tutto questo non ti ha impedito di rubarmi, Marie? E che la festa continui! E questa invece è veramente, sembra tratta da Festen in qualche modo. Boris, grazie per averci raccontato anche questo film. Se sposti un posto a tavola, appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana. In realtà adesso fra poco Boris lo risentiremo perché ci ha regalato un'intervista molto molto interessante. Prima però giochiamo insieme con la seconda traccia del nostro game di oggi. E questi suoi capelli grigi sono dovuti alla recente malattia? Sono un messaggio agli italiani, siate onesti, smettete di tingervi. La Rosa Purpurea @radio24.it, di che film si tratta? Il titolo per provare a vincere una copia in Blu-ray per il sabato e per la domenica di questo film. Più tardi avremo l'ultima possibilità. E allora passiamo a parlare del cinema che verrà, del cinema italiano della prossima stagione autunno-inverno. Oggi vi presentiamo uno dei film più attesi da uno dei registi più attesi, ovvero Daniele Lucchetti. Tra l'altro, notizia degli ultimi giorni, sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Toronto, che si svolge praticamente in contemporanea o quantomeno in accavallamento con quello di Venezia, il nuovo film di Daniele Lucchetti che si intitola Anni Felici. Era precedentemente conosciuto con il titolo provvisorio di Storia mitologica della mia famiglia, che forse dice qualcosa in più su una pellicola fortemente biografica. Protagonisti Kim Rossi Stewart e Micaela Ramazzotti nelle sale italiane dal 3 ottobre. E allora Boris Sollazzo ha intervistato Daniele Lucchetti. Anni felici, cos'è, un'illusione, un'utopia, una speranza? Ma in realtà il personaggio a un certo punto dice erano anni felici anche se non ce ne eravamo accorti, viene raccontato in estate di conflitti estremi fra due genitori che non riescono a stare insieme, non riescono neanche a lasciarsi, non riescono a perdersi, ma si perdono e in qualche maniera sono gli anni in cui i sentimenti, anche quelli negativi, sono possibili e ti fanno sentire vivo, cioè in qualche maniera la felicità non è essere beato, ma è, come dire, vivere le emozioni fino in fondo, comprese quelle conflittuali. Il film è un film di conflitti insanabili e in qualche maniera racconta che tu hai avuto almeno quel coraggio lì di vivere un conflitto insanabile fino in fondo. Quando in che momento è ambientato, in che momento storico è ambientato il film? Il film è ambientato nel 74, ho scelto il 74 all'inizio perché era l'anno del referendum sul divorzio, ma poi ho pensato anche che era un momento per Roma in cui l'arte figurativa era abbastanza avanzata, c'erano, insomma, Marina Abramovic che veniva a Roma, c'erano i primi esperimenti di body art, c'erano gli happening e le performance come strumento artistico ormai consueto, anche se questo si vede solo da lontano, come da uno spiraglio, dal buco della serratura di una famiglia borghese, di un artista che non riesce a essere dentro quel mondo lì, vorrebbe esserci, ci prova in tutte le maniere, ma è fuori, c'è una cosa che mi ha detto Montagna a suo tempo quando gli raccontai la storia di mio padre, molto semplicemente quando gli raccontai mio padre che non conosceva, disse ma sì, tu mi stai raccontando di uno di quelli che stava fuori, noi eravamo dentro e poi c'è tanta gente che sta fuori e lui è quello che sta fuori. Mi colpisce molto l'ossimoro, nel senso che il 74 sono anche gli anni di piombo, quindi gli anni infelici per eccellenza dell'Italia, e tu esci con questo film in anni infelici che fino a poco tempo fa ci si illudeva che fossero felici, che fossero quelli del benessere, della fine della... È un cliché quello di dire che gli anni del 74 era già un anno di piombo, nel senso che è stato anche molto cinema che ci ha abituato a pensare che la vita fosse solo quella. E in realtà io che... nel 74 avevo 14 anni, anche se nel film ne ho 10, e sentivo tutt'altro, cioè a un certo punto ho cominciato a sentire il peso di quegli anni, ma perché il cinema ce l'ha fatto riflettere su questo, ce l'ha raccontato e ha riflettuto sul fatto che stavamo vivendo una tensione che era cresciuta piano piano e di cui non ci eravamo accorti. Per quanto riguarda le persone che vivevano nel mondo dell'arte, nel mondo dell'espressione, nei cineclub, che andavano a vedere i film in cinema al Farnese o al film studio, eccetera, erano anni felici, perché erano gli anni in cui l'uomo e la donna, per esempio, discutevano del loro ruolo. Erano gli anni di Ultimo Tango a Parigi, in quell'ultima volta che un regista adulto parla a un pubblico adulto di tematiche adulte. Erano gli anni ancora in cui ancora il cinema americano non aveva abbassato a livello adolescenziale la comprensione delle trame. Quindi tutto sommato, secondo me, è un periodo in cui le persone si interrogano su se stesse, sul proprio ruolo nella sessualità, nella società, nella coppia, eccetera, sono anni felici. E questi anni in cui si è smesso di domandarsi questo sono anni meno felici, semplicemente perché sembra che l'economia sia il centro di tutto e che tutto debba avere un ritorno economico e che il misuratore della felicità sia l'economia. Invece quelli erano gli anni in cui il misuratore della felicità era la felicità, punto. Forse in questo senso è proprio l'assenza di conflitti in questo momento che fa sì che non ci sia un terreno fertile per l'arte e per tante altre cose. Tu racconti dei conflitti che forse adesso in quei termini non ci sono più. Ma erano anni in cui le emozioni erano più forti, secondo me, nel senso che oggi l'emozione è, come dire, tenuta sotto controllo da mille strumenti. Faccio un esempio, no? Sarebbero scoppiate 3 o 4 rivoluzioni in questi ultimi anni di piazza se non ci fosse stato Facebook, perché Facebook ti dà l'impressione di avere un pubblico con cui incazzarti, di avere quello che si faceva in una sezione e quindi, come dire, aprire una discussione con gli altri. Ma in realtà è un modo in cui le proteste si disattivano, le arrabbiature si trovano il mi piace degli altri e che quindi di conseguenza si trasforma in una sorta di narcisismo, no? L'arrabbiato via Facebook è un arrabbiato narcisista che alla fine non attiva nulla nel mondo reale. E quelli erano invece gli anni in cui nel mondo reale le cose succedevano, in cui se un artista faceva una cosa folle a Piazza del Popolo, il giorno dopo tutti ne parlavano. Se una donna si spogliava nuda e attraversava un campo di calcio, il giorno dopo era una cosa accaduta, non era una cosa teorizzata. Mi ha molto colpito a questo proposito, infatti faccio una piccola provocazione, che mentre facevi un film così importante per te, un film a cui stai dedicando anche molto tempo, sì, insomma, te ne sei fregato dei festival, hai voluto chiuderlo, sì, come lo volevi tu, da una parte c'è stata una tua attività sui social molto molto forte. Ma sì, perché quello è una sorta di sfogo nervoso, cioè me ne sono reso conto attivandomi, scrivendo molto su Facebook, con quei 4 amici che ho, e che in qualche maniera quello è una maniera di scaricare la tua aggressività, che non so se è quanto sia corretto, comunque è un diverso modo di... Probabilmente se non ci fosse stato il social network, la sera sei andato in qualche sezione, in qualche bar, in gruppi di amici a sbraitare, a brontolare, sarebbe successo qualcosa di reale, probabilmente dalla somma di tutte queste arrabbiature, no? E invece sulla mia pelle ho sperimentato anche questo, perché io sono contemporaneo comunque, cioè... Prima di chiudere l'intervista volevo chiederti questa cosa, hai scelto 2 attori molto particolari, Kimi Rossi Stewart e Michela Ramazzotti, che tra l'altro avevano già recitato insieme in un film di Francesca Archibugi. Come li hai scelti? Ti ha ispirato anche quel film oppure è stata una casualità? Quel film mi ha rassicurato perché ho visto che era una coppia che sullo schermo era molto credibile. E poi per quanto riguarda la scelta, quella di Kim è stata immediata, nel senso che ho trovato una somiglianza nel suo tormento interno molto simile a quella del personaggio. È una somiglianza anche psicologica profonda con la figura di mio padre. E Michela, che ha anche lei per le stesse ragioni, tutto sommato, in realtà è stata scelta dopo tanti provini. Provini con tante attrici, tutte attrici che stimo, e che però ho trovato quella essere più risonante con un certo tipo di femminilità un po' all'antica, quella di pancia, quella che non ragiona tanto ma agisce e basta, spinta dal cuore, spinta dall'emotività e anche senza pudore, come dire, che non si vergogna di essere, cioè se c'ha un gesto d'amore non se ne importa niente se farà brutta figura, no? Conosci o riconosci qualcosa di te in più dopo aver fatto questo film, visto che insomma non è un film normale per te? Guarda, è strano perché mentre scrivevo continuamente ricorrevo alla memoria personale, ai ragionamenti personali, a quello che ho imparato da anni di psicanalisi, anche da anni di essere stato figlio e padre poi, e girando il film invece ho avuto come l'impressione che si muovesse da solo, che il film si girasse un po' per conto suo, tant'è vero che la sera dicevo ma che abbiamo girato oggi? La mattina dopo dice ma ieri che abbiamo fatto? Ma poi il film lo riconosco pienamente come mio, cioè non penso che di essere stato come in una condizione di strano distacco, come dire troppo vicino di Scotti, troppo vicino al fuoco. Quindi non so se il film sia venuto bene o male, questo non saranno altri a dirlo, però sicuramente sono stato in uno stato d'animo molto cauto, una cautela automatica però che non ho programmato. L'ultimissima domanda è, si chiamava Storia mitologica della mia famiglia, sì. È diventato Anni felici, la transizione di questi a questo titolo qual è stata? Qual è stato il motivo? Ma perché all'inizio questo era un film che nei primi soggetti, nei primi trattamenti era un film sulla narrazione, in cui c'era una famiglia che raccontava cose e che quindi ognuno raccontava una leggenda familiare contraddittoria con quella precedente. Poi mano a mano che andavo avanti mi si rendevo conto che era un film di aneddoti, a me gli aneddoti non piacciono né al cinema né neanche nella vita. E quindi ho centrato, focalizzato più la storia sulla storia di questi genitori, di questi figli e tutto quello che era storia mitologica della famiglia, quindi i racconti della guerra, i racconti degli amori finiti male, eccetera, sono decaduti e alla fine mi sembrava che il sentimento più forte fosse questo dei sentimenti potenti e contraddittori che i personaggi vivono e che però significa un'estate di felicità nonostante sia un'estate di rotture. Speriamo di rivederti in Laguna allora. vediamo. La Rosa Purpurea. Ancora qui alla Rosa Purpurea, quarta parte, che significa come sempre film da vedere o rivedere in casa sul piccolo schermo, comunque sul piccolo schermo, anche nella casa di vacanza, se siete già partiti. Non sono partiti gli amici della settimanale Film TV, redazione sempre aperta, con noi c'è Giulio San Giorgio, ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Giulio, anche oggi abbiamo pescato due cosine, due chicche così, diciamo, molto diverse fra di loro, ma che ci piacciono molto. Cominciamo con un film giapponese del più grande talento probabilmente che il cinema, che un certo tipo di cinema giapponese e non solo ha espresso a cavallo fra gli anni 80 e 90, stiamo parlando di Takeshi Kitano, in un suo film atipico perché molto molto narrativo, molto poetico, forse il film nel quale lui parla di più in assoluto, ed è un film davvero per famiglie e quasi per bambini, che si intitola L'estate di Kikujiro. Lunedì sulla F alle 21.35, l'estate di Kikujiro. Siamo a Tokyo, è estate e il piccolo Masao si sta annoiando. La nonna lavora tutto il giorno, gli amici sono partiti per le vacanze, il campo di calcio è deserto. Un giorno conosce Kikujiro, appunto, uno sfaccendato cinquantenne con la faccia da duro. Non è certamente la persona più adatta per accompagnare il ragazzo, ma una strana coppia si mette comunque in cammino. Con un occhio alla malinconia di un monello di Chaplin, Takeshi Kitano coniuga il suo straordinario senso per la composizione dell'inquadratura con uno spiccato gusto per la comicità demenziale, quel gusto che avevamo visto in un film che si chiamava Getting Any, in quel programma che la Jalappa commentava e si intitolava Mai dire Banzai, che è il programma che l'ha reso famosissimo in Giappone. È una favola contemporanea questa estate di Kikujiro, piena di suggestioni e di lampi che conciliano l'inconscio infantile con quello di un adulto che ha scelto di non crescere. È un film molto molto visivo, eh? Ci sono scene che io a distanza di quasi 15 anni ricordo ancora perfettamente dalla prima volta, un film coloratissimo con questi giochi straordinariamente colorati che questo Kikujiro si inventa un po' durante questo film. Davvero bello vederlo in TV lunedì 29 luglio alle 23.15 sulla F. Più consolidato, diciamo così, come immaginario e anche come popolarità, è Rusty il Selvaggio di Francis Ford Coppola, 1983. Sono passati però 30 anni e vale la pena forse di ridarci un'occhiata. Sì, martedì su Rai 4 alle 23.10, Rusty il Selvaggio. Siamo a Tulsa, Oklahoma. Il 16enne Rusty vive con il padre, che fu un avvocato e ora è solo un alcolizzato, e fra una rissa e l'altra sogna di imitare il fratello maggiore, che tutti chiamano quello della moto. È il film gemello che Coppola realizzò a parte di Ragazzi della 56esima strada, e qui Coppola sceglie una messa in scena di notevole complessità che deve tantissimo all'espressionismo tedesco e a Orson Welles. Ci sono grandangoli, prospettive a sgambe, bianco e nero interrotto solo da metaforici pesci colorati che sono quelli che richiamano poi il titolo originale del film. e costruisce un apologo sulla libertà intriso di risonanze mitiche. È un teen movie ribellistico che mette in croce il mito americano della gioventù. E un cinema nella sua espressione più barocca e melodrammatica, pieno di simbolismi elementari e lancinanti. Un bellissimo film. Bellissimo film da vedere allora martedì 30 luglio alle 23:10 su Rai 4. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana, perché saremo sempre qui, anzi lo diciamo, Film TV sarà qui con noi tutta l'estate a raccontare le novità sul piccolo schermo. Grazie Giulio. Ciao Franco, alla prossima. Ebbene, bene, allora andiamo avanti adesso giocando per la terza e ultima volta in questa nostra puntata con il nostro film misterioso. Come hai detto bene tu, è la catastrofe. Però ci vengono richieste azioni concrete. Tu che cosa faresti? Cercherei di non calpestare la dignità di chi non può difendersi. Se l'Europa e il mondo sono diventati una miserabile bottega, allora noi chi siamo? Lei chi è, Presidente? La Rosa Purpurea a @radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci il titolo di questo film, il vostro indirizzo, provate a vincere una copia per il sabato e per la domenica del Blu-ray di questo film. Sveleremo tutto fra 7 giorni. 7 giorni fa invece avevamo giocato così. Il pesce rosso che ci hai mostrato, era vero? Lo era, ed era anche morto. Tu hai riportato in vita un animale? No, è stato Victor, con fulmini, e boom! E... impossibile. Si trattava di Frankenweenie, film di Tim Burton, uscito nel 2012, uscito veramente in Italia il 17 gennaio di quest'anno, quindi appartenente in pieno a questa stagione cinematografica, un altro dei lavori in bianco e nero gotigheggiante da parte di Tim Burton. E allora, lo hanno indovinato, non era facilissimo, lo hanno indovinato, bravi, Francesco Lomascolo di Fasano, provincia di Brindisi, e Tatiana Ortu di Bologna, saranno loro a ricevere la copia in Blu-ray di questo film che ci facciamo raccontare dal nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, da Walt Disney Studios Home Entertainment, l'edizione home video DVD, ma soprattutto Blu-ray, con un'offerta che in un'unica confezione include la versione in alta definizione, sia 2D che 3D, sono entrambe da riferimento per la qualità d'immagine, ma anche audio, con tracce DTS in italiano pregevole resa e DTS ad alta risoluzione in inglese. Tra gli extra segnalo un corto originale, focus sulla realizzazione dell'opera e le immagini della mostra dedicata ai personaggi del film, con inclusi i bozzetti di Tim Burton. E questo per quel che concerne allora Frankenweenie. Andiamo avanti Claudio con le segnalazioni, le novità che sono arrivate in questi giorni nelle videoteche. Parliamo di Il mondo dei robot, un film fantathriller scritto e diretto da Michael Crichton. Devi entrare nello spirito della cosa. Mi sento sciocco. Ma perché? Mi sa di scherzo. Non è uno scherzo, questo è un Luna Park. È il migliore Luna Park del mondo. Non hai che da divertirti. Ci sono dei clienti con certi ceffi qui. Chissà quanti di loro sono... turisti come noi? Chi lo sa? È il bello di questo posto. Non ha nessuna importanza. Nel futuro la robotica ha raggiunto un livello di tale perfezione per cui gli androidi sono difficilmente distinguibili dagli esseri umani. Il più costoso parco giochi mai inventato è Delos, in cui John accompagna Peter nella speranza che quest'ultimo dimentichi una relazione sentimentale finita male. Assieme a loro tutti gli ospiti si ritroveranno ad affrontare la mortale rivolta degli androidi. Il mondo dei robot è una fantascientifica allucinazione western scritta e diretta da Michael Crichton, notevole cast, tra cui uno Yul Brynner da Antologia. Da Warner Home Video, l'edizione Blu-ray di ottima qualità d'immagine, audio monofonico in italiano accettabile dell'epoca, DTS ad alta risoluzione, multicanale inglese decisamente superiore e capace di coinvolgere maggiormente lo spettatore. Come extra segnalo un focus sulle location e uno speciale dell'epoca sulla realizzazione. E passiamo a un altro titolo. Allora, abbiamo parlato diffusamente nel corso della Rosa Purpurea dell'uscita in sala di Wolverine l'Immortale. Abbiamo detto appunto che si tratta di un ennesimo episodio che ha come protagonista questo mutante interpretato da Hugh Jackman. Ecco, allora, proprio in concomitanza e non a caso con l'uscita cinematografica, si può rivedere anche in Blu-ray con la definizione, insomma, del Blu-ray, l'altro episodio, il precedente episodio di Wolverine, appunto, quello datato 2009. Io ti posso dare i mezzi per sconfiggerlo e possiamo ancora salvare gli altri. Vuoi dire salvare te stesso, giusto? Ti posso assicurare una cosa. Patirai più dolore di quanto ogni altro uomo possa tollerare, ma avrai la tua vendetta. Se vengo con te, vengo per il sangue. Nessuna legge, nessun codice di condotta. Mi metti nella direzione giusta e ti levi dalla mia strada. Logan e Victor sono due fratelli uniti da una mutazione genetica che li ha trasformati in esseri invulnerabili. A partire dal XIX secolo rimangono coinvolti in molti dei tragici eventi e guerre vissute dall'umanità, sino all'incontro con un colonnello dell'esercito americano che li vuole con sé. Sottoposto a un trattamento in cui lo scheletro è ricoperto da una lega indistruttibile, Logan fugge dopo aver perduto parte della memoria. Gli darà la caccia il fratello. Diretto dal regista e attore Gavin Hood, il primo film su Wolverine sa come coinvolgere e intrattenere in particolare gli appassionati di fumetti Marvel, nonostante qualche momento di involontaria ilarità. Riedizione in alta definizione della 20th Century Fox Home Entertainment, che ripropone la precedente edizione Blu-ray con il film di strepitosa qualità, traccia audio DTS di eccellente resa per l'italiano, e DTS ad alta risoluzione ancora migliore per l'inglese. Tanti gli extra già pubblicati che approfondiscono la lavorazione, tra cui i commenti al film. In più c'è un secondo disco con un'ora di extra tratti dai 5 film già realizzati sugli X-Men e la replica di un fumetto del 1982 dedicato a Wolverine. Grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E siamo giunti alla fine allora della nostra trasmissione, lo ricordano le note della nostra sigla, allora a me non resta che ricordarvi il nostro indirizzo Facebook, la nostra pagina Facebook Radio 24 La Rosa Purpurea, cercateci e cliccate mi piace, partecipate durante la settimana col dibattito a quello che avete visto. In settimana un ascoltatore ci ha ringraziato per aver segnalato nelle scorse puntate il film di Silvio Soldini, L'area serena dell'Ovest, dicendo che è stato veramente un piacere rivederlo. Ecco, pensiamo molto modestamente di servire soprattutto a questo, cioè a dare indicazioni di film che vale la pena vedere nello splendore del grande schermo, che è il suo formato, che è casa sua, è la casa del cinema, ma anche sul piccolo per rifarsi un curriculum cinematografico. Grazie allora a tutti voi, cliccate mi piace sulla pagina della Rosa Purpurea a Facebook, grazie a Carmelo Lauricella che ci ha aiutato in regia, a Giorgio De Luca in redazione. Noi ci risentiamo tra 7 giorni. Un saluto da Franco D'Assisi.